la corsa rompe dei globuli rossi tutte le volte che noi corriamo, qualunque tipo di sport che comporti un impatto con il terreno, anche, non so, pallavolo piuttosto che tennis o altro, comporta una rottura di globuli, e quindi anche qui una perdita di ferro che va recuperata. A parte la rottura di globuli, che detta così suona male. Noi abbiamo reso Mazzone un uomo migliore, giusto? Sì. Con le proteine. Lei ci faccia spendere poco, su. Anche cercare le offerte, no? Fa parte di fare un po' di attività sportiva, anche quella. Almeno della mente. Settimana lo vedo sempre più bello. Ma è la tua presenza. Ma ci innamoreremo di questo Luciano Mazzone. Spiegaci bene cosa significa essere una forager. Mi sembra un po' Kassinger. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Due dure giornate di lavoro per noi, Nicoletta, effettivamente. Qui da Montepulciano è un po' sofferente la situazione. Cuore Denari in trasferta, torna in trasferta, perché lo ha già fatto anche la settimana scorsa, e per questi due giorni si è trasferita a Montepulciano, la meravigliosa cittadina toscana in provincia di Siena, a cavallo fra la Val di Chiana e la Val d'Orcia. Questa bellissima e accogliente località da qualche tempo, da qualche anno, ospita la manifestazione Luci sul Lavoro, un evento di tre giorni interamente dedicato al tema del lavoro. Gli studi della radio sono ospitati dalla fortezza medievale del comune, che è il luogo dove si svolge questo evento, che comprende iniziative di vario tipo, confronti, convegni e anche un bel premio, quello intitolato al giuslavorista Massimo D'Antona. Noi oggi, per la parte di denari, oltre a raccontarvi tutto di questa manifestazione, vi racconteremo anche che cosa sta cambiando nel panorama dei servizi per l'impiego. Perché? Perché c'è una novità molto importante: in corso di istituzione l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, cioè l'ANPAL, che è partecipata da Stato, Regioni e Province Autonome, vigilata dal Ministero del Lavoro, della quale parleremo oggi per capire a che cosa serve. Siamo peraltro proprio assolutamente sul pezzo, come si dice, perché proprio pochi istanti fa l'OCSE ha pubblicato il rapporto annuale sull'occupazione e parla di politiche attive del lavoro che devono essere rafforzate in Italia e rese più efficienti, e commenteremo questo studio pubblicato proprio pochissimi minuti fa con i nostri ospiti di stamane, che fra un po' andremo a presentarvi. Come sempre aspettiamo anche i vostri interventi all'800240024, oltre, se vorranno, anche di coloro che sono qui a tenerci compagnia nello studio che è stato appositamente allestito per noi. Abbiamo anche un po' di pubblico quest'oggi. Vi siete trovati a cercare lavoro di recente? È toccato per esempio ad un figlio, ad un nipote negli ultimi anni? Ci sono stati dei punti di riferimento precisi ai quali vi siete rivolti? Quali sono stati i primi che vi sono venuti in mente? Il centro per l'impiego della vostra provincia, per esempio, è stato uno di questi? Raccontatecelo al numero verde, ma anche al 349-238-6666. E il tema del lavoro diventa anche tema della parte di cuore, con un'altra declinazione. Ci avete mai pensato a tutto quello che il vostro lavoro ha aggiunto alla vostra vita e alle vostre competenze? Del resto, come in tutte le cose, c'è anche l'altro lato della medaglia. Certamente il lavoro ha tolto anche qualcosa alla vostra vita, ma mentre quasi sempre questo tipo di bilancio è di natura esistenziale, quindi avrei voluto essere, diventare, mi è andata bene, poteva andarmi meglio, oggi vogliamo trasformarlo, un esperto che voi conoscete bene, il dottor Aquilar, in qualcosa di diverso, e farlo diventare un bilancio a favore del nostro benessere. Ne parleremo nella seconda parte della nostra trasmissione, quindi a partire dalle 11.45. Intanto provate a completare queste frasi con il primo pensiero che vi viene in mente. È una sorta di gioco test. Il lavoro che mi trovo a fare? Mentre sto lavorando penso, alla fine di una giornata di lavoro mi sento stanco, ma naturalmente questi stimoli li trovate anche sulla pagina Facebook del nostro programma, e quindi mettetevi al lavoro. 800 24 00 24 se volete intervenire in diretta. Il suo nome, prego? John C. Public. Public, ci deve essere una L in mezzo. Mr. Public, ha avuto esperienze in qualche ufficio prima d'ora? Sì, certo. Di che tipo di ufficio si trattava? Rettangolare. Ha per caso qualche esperienza nell'uso di un computer elettronico ultimo tipo? Sì, l'ho usato. In che ditta? Mia zia ne ha uno. Bizzarro colloquio di lavoro che non poteva che avere come protagonista Woody Allen. Allora, cercare lavoro è peraltro a sua volta anche un lavoro, lo diciamo sempre, perché bisogna saperlo cercare, bisogna saper gestire adeguatamente un colloquio, un po' meglio possibilmente di quello sostenuto da Woody Allen. Bisogna presentarsi con un curriculum scritto adeguatamente. Sappiamo anche quanto sia importante la rete dei servizi pubblici e privati che sostengono questa ricerca, che ci sostengono in questa ricerca. Ne parliamo qui a Montepulciano, come vi anticipavo poco fa, in diretta dalla manifestazione Luci sul Lavoro. Non c'era, immaginiamo, un'occasione migliore in questo momento. Se vi trovate intanto qui nei dintorni, casualmente potete accomodarvi, assistere alla nostra diretta, intervenire, o potete accomodarvi anche attraverso il nostro numero verde, che è l'800 24 00 24. Noi oggi vogliamo partire proprio dalle vostre esperienze, dalle vostre testimonianze in materia di ricerca del lavoro. Un'emergenza vera e propria per i ragazzi, lo diciamo spesso, e allora soprattutto voi, o se siete genitori come al solito preoccupati per la condizione di disoccupazione in cui versa vostro figlio, vostro nipote, vi siete trovati a cercare lavoro di recente? È toccato appunto ad un figlio o a nipote? Quali sono stati i primi punti di riferimento che vi sono venuti in mente, i primi appigli? Avete trovato sistemi e servizi che vi hanno accompagnato? Vi siete sentiti persi? Vorremmo sapere qual è stato proprio il primo appoggio a cui avete pensato, le vostre conoscenze, le agenzie per il lavoro private, centri per l'impiego pubblici, ricerca autonoma, per esempio online. La partecipazione ad iniziative come questa, eventi, convention in cui le imprese incontrano chi cerca lavoro, insomma, le possibilità sono tante, ma spesso non si sa come mai in realtà si brancola proprio nel buio. Noi cercheremo di capire perché capita questo e se cambierà qualcosa con l'istituzione dell'Agenzia Nazionale per l'Impiego. Saluto i nostri ospiti. Maurizio Sorcioni, responsabile studi e analisi del mercato del lavoro di Italia Lavoro. Buongiorno. Buongiorno, benvenuto. Sai che è stato anche un concorrente conduttore televisivo? Me l'avevi anticipato. Ecco, adesso non vorrei mai che qua in questa ricerca di lavoro ci sottraesse il microfono. Allora, togliamogli subito allora la cuffia. La nostra intervista finisce qui allora. Vuole candidare. Dire che ha scuffiato. La voce che sentite invece profonda e calda è quella del professor Gianni Arrigo di Eidos. Caldo che è appropriato in questi giorni. Direi che è il termine più azzeccato in assoluto delle ultime giornate. Il professor Arrigo, oltre ad essere docente di diritto del lavoro all'Università di Bari, anche ci rappresenta questa mattina a Eidos, che è l'istituto di ricerca che si occupa di temi sociali, promuove anche il premio di laurea intitolato a Massimo D'Antona e coordina proprio l'organizzazione anche di questo evento, Luci sul Lavoro di Montepulciano, per cui abbiamo i due padroni di casa, possiamo un po' definirli così. Allora, vorrei cominciare subito proprio con il presentare questa iniziativa. Professor Arrigo, allora comincio con lei. Che sì. Storia ha Luci sul Lavoro? Come è nata? A chi si rivolge soprattutto? Luci sul Lavoro nasce nel 2009 come prime attività che svolgiamo a Montepulciano con pochi esperti ed amici. Tra l'altro nel 2011 anche l'amico Sorcioni interviene con un interessante convegno sulle politiche attive qui a Montepulciano e in quanto organizzazione condivisa con Italia Lavoro e con il Comune di Montepulciano, infatti è l'occasione per ringraziare il nostro amatissimo sindaco, è dal 2012, quindi è la quarta. È interessante perché il 2012, la quarta manifestazione avviene con un quarto governo e quindi con un quarto ministro. Come diceva Enrico Letta, ci si diverte sempre, lo disse in francese, ma non voglio ripetere malaccuratamente queste parole, ci si diverte sempre in questo paese. Eppure lui si è divertito moltissimo, come sappiamo. Quindi ogni anno si ricomincia da capo. Esatto, quindi arriva un nuovo ministro del lavoro che mette le mani in questo settore che avrebbe bisogno, forse magari, professor Arrigo. E quindi nel primo abbiamo parlato della riforma Fornero, nel secondo del fallimento della riforma Fornero, nel terzo dell'inizio del Jobs Act. Poletti. Sì, no, e Jobs Act è più divertente perché sembra la legge di Steve Jobs, se ci fa caso. Invece no, è la legge sui jobs, sulle attività, sulle mansioni. E oggi parliamo di una una parte importante, ma il professor Sorgioni è più informato di me, che riguarda proprio l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro. Insomma, non so se vi divertite, ma sicuramente non vi annoiate, no, diciamo così. Anzi, no, la noia è cattiva consigliera. Bravo, si potrebbe certo. dire. Certo, però diciamo che questa iniziativa non è solamente un insieme di convegni, no. In realtà fate anche dell'altro, mettete in vetrina per esempio i makers. Stamattina stavo rinotando di nuovo tutta la cartellonistica che arricchisce questo chiostro, quindi raccontate un po' anche quello che fanno i ragazzi che si cimentano in tantissime attività professionali. Sicuramente, poi ci sono dei premi, a parte quello intitolato a Massimo D'Antona, che però arriva all'undicesima edizione, anzi si può dire che Eidos come prima iniziativa ebbe proprio questa dell'istituzione di un premio non soltanto intitolato a Massimo D'Antona, ma rivolto ai giovani perché approfondissero tematiche del lavoro. Poi ci sono i concorsi per i corti, i concorsi fotografici che riscuotono un certo successo. Poi ci sono anche attività di vario genere collegate sempre ai temi del lavoro e riflessioni anche estemporanee come quest'anno. Peccato che i nostri ascoltatori non possono venire perché si diverterebbero moltissimo. Guardi, allora l'anno scorso non c'era neanche Radio 24, c'era solamente io che ero venuta per conto mio a vedere. Che l'anno prossimo in realtà non si possa aumentare appunto il numero dei partecipanti con modalità diverse. Allora, peraltro, intanto stavo già osservando gli sms che stanno arrivando. Noi siamo partiti parlando di giovani perché questa è l'emergenza nazionale che ci sta più a cuore, ma naturalmente non possiamo sottovalutare l'emergenza che invece riguarda gli over 40 e gli over 50, che pure rimangono senza lavoro e sono quelli che quando si trovano in questa condizione sono quelli più in difficoltà a rimettersi sul mercato, a cercare l'interlocutore giusto. Vi leggo subito due messaggi e poi li commenteremo con i nostri ospiti. C'è Sabrina che scrive: sono 15 anni che cerco un lavoro degno di questo termine. L'Italia ritengo non sia un paese adatto, le pari opportunità sono un'utopia, il reinserimento per gli over 40 è pura farsa, per non parlare di quando ci sono dei figli e si è separati. Ricerco quotidianamente senza risultati. Caso completamente diverso quello di Roberto, che invece ci scrive: trovato lavoro a 51 anni, senza perdere un giorno, passaparola con amici, agenzie lasciamo perdere, inviato curriculum dopo aver telefonato, contattato dopo 2 ore, colloquio dopo una settimana, mi è stato chiesto quando potevo cominciare. Sorcioni, sono due casi molto diversi naturalmente, ognuno meriterebbe una trasmissione a sé probabilmente, ma secondo lei che cosa ci raccontano queste due testimonianze? Ci raccontano sostanzialmente due cose. Primo, che noi abbiamo di politiche attive che ancora non è sufficiente a garantire a questi lavoratori l'assistenza necessaria ad avviare la propria attività professionale. Questo è il primo elemento. Siamo molto indietro. Studi dell'Ocse che prima venivano citati ce lo confermano. Siamo tra i paesi che hanno una spesa sulle politiche attive più bassa d'Europa. Quando parliamo di politiche attive bisogna capire di che cosa. Bravo. Facciamo una bella differenza, esatto. Quindi la differenza fra chi si incarichi. Allora, le politiche del lavoro si dividono sostanzialmente in due grandi. Ad attivare il disoccupato, a sostenerlo nelle fasi di ricerca del lavoro e di inserimento professionale. Entra in questo anche la formazione professionale, per esempio, certo. L'orientamento, tutti quei servizi che servono sostanzialmente ad accompagnare il lavoratore a trovare un'occupazione. Le politiche passive rappresentano il supporto economico che viene dato ai lavoratori sociali, il sussidio di disoccupazione. Il paracadute quando ci si trova improvvisamente in quella condizione. Ora, negli ultimi 15 anni si è scoperto che questi due elementi devono vivere insieme, devono lavorare insieme, cioè il sostegno alla disoccupazione deve servire a sostenere il lavoratore nella fase di ricerca, ma poi sono le politiche attive che gli permettono di avvicinarsi. Noi abbiamo fatto degli investimenti molto sostenuti sulle politiche passive, sugli ammortizzatori, adesso dobbiamo fare lo sforzo di adeguare le nostre politiche attive a quelle dei grandi paesi europei, della Germania, del Regno Unito, della Francia e così via. E l'Ocse ce lo ricorda, ci dice che abbiamo speso, ancora spendiamo troppo poco su questa componente delle politiche del lavoro ed è necessario fare parecchia strada per avvicinarci agli standard degli altri paesi europei. La costituzione dell'ANPAL è un pezzetto di questa strada? Ma l'ANPAL... Che cosa c'è intanto sotto questa sigla, Sorcioni? Allora, ANPAL sta per Agenzia, lo dicevamo prima, Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro. Sostanzialmente coordinerà tutti gli operatori che si occupano di questo, quindi gli operatori privati, gli operatori pubblici, l'INPS, l'INAIL e le altre organizzazioni, le regioni ovviamente, tutti coloro che realizzano politiche attive del lavoro e quindi le coordinerà. In più avrà un'altra funzione, cioè quella di sostenere le politiche attive laddove non si riescano a garantire i diritti dei disoccupati che oggi con il Job Act sono stati introdotti ed estesi rispetto al passato. Quindi si tratterà di un'agenzia che avrà il compito anche di intervenire sul territorio e questa sarà la parte un po' più complicata su cui ovviamente c'è anche già un bel dibattito. Un bel dibattito, sì. Per il ruolo che avranno le regioni in questo nuovo contesto, perché oggi loro rivendicano naturalmente la loro autonomia in tema di gestione delle politiche per il lavoro e quant'altro. Per cui, peraltro, a che punto siamo della costituzione di questa agenzia, Sorcioni, e soprattutto, ce lo dicevamo prima a microfoni spenti, i nostri ascoltatori, molti di loro sono molto appassionati di termini di legge, quindi qual è, come dire, il pacchetto legislativo che istituisce questa nuova organizzazione? Dunque, il Job Act cosiddetto, la legge 183 del sì. 2014, chiamiamola con il suo nome, è una legge delega che quindi prevedeva tutta una serie di decreti che avevano il compito di specificare quello che era riportato nella legge delega. Il decreto 177, lo schema di decreto 177 che in questo momento è in discussione alle commissioni lavoro di Camera e Senato, definisce la parte che riguarda le politiche attive, i servizi per il lavoro e gli incentivi al lavoro e si dà ovviamente un'organizzazione per realizzare questi obiettivi. Quindi declina sostanzialmente quelli che erano i principi all'interno del Job Act. C'è da dire un aspetto importante. Perché questo decreto ha un ruolo cruciale? Perché teniamo presente che con la nuova indennità di disoccupazione, la cosiddetta NASPI, che è stata introdotta, che estende il periodo di disoccupazione a 24 mesi per chi ha avuto 4 anni di contribuzione, quindi amplia la platea, ovviamente siccome il fatto di ricevere un'indennità di disoccupazione per un disoccupato significa avere il dovere e il diritto e il dovere di partecipare a programmi di politica attiva, ci sarà l'esigenza di, come dire, mettere a disposizione dei disoccupati che percepiscono l'indennità di disoccupazione le politiche attive, per l'appunto, cioè, i servizi, la formazione e quello che gli serve. Devono dialogare, certamente. Esatto. Quindi questa è la parte più complicata sulla quale siamo un po' più indietro. Il decreto cerca di definire i principi attraverso i quali questo rapporto, benissimo, che si chiama condizionalità, proprio perché il sussidio è condizionato alla partecipazione a programmi di politica attiva, si diventi operativo, e questa è la parte più difficile sulla quale siamo un po' indietro ancora come paese. Insomma, sentiremo ancora parlare di questo argomento, sì, a lungo vi seguiremo naturalmente anche con Cuore Denari. Intanto 800 24 00 24, andiamo subito da Sandra che ci chiama da Roma. Buongiorno Sandra, benvenuta. Buongiorno a lei, posso cominciare? Certo. Ok, vorrei sapere se questa agenzia AMPA si occuperà mai di quei giovani laureati in studi umanistici, faccio esempi, scienze politiche, sociologia, lettere e filosofia, storia dell'arte, per i quali veramente qui in Italia non c'è nessun tipo di prospettiva. Esempio, mia figlia ha fatto tutto quello che poteva fare, master di un anno in Inghilterra, corso di francese in Francia, e però tutto quello che ha trovato è stato un volontariato, ma è stato molto difficile e abbiamo dovuto cercarcelo, ce lo siamo cercato da sola, insomma, ecco. Quindi la domanda, Sandra, è io e Nicoletta, certo, io e Nicoletta abbiamo conosciuto due sorelle molto in gamba che gestiscono una residenza meravigliosa qui a Montepulciano. Una delle due fa la restauratrice, nella vita vorrebbe fare questo almeno, ma momentaneamente gestisce bed and breakfast in un contesto meraviglioso che è quello di Montepulciano, bellissimo. Non era certo, immagino, questa la sua vocazione. Professore Arrigo, le faccio fare professore universitario adesso, sì. No? Lei fa il docente di diritto del lavoro, quindi si rivolge a ragazzi che stanno preparandosi e, come dire, avendo una formazione universitaria giuridica diversa rispetto alla figlia di Sandra, però immagino che questo sia un po' il dilemma che attanagli molte mamme e molti papà in questo momento, che sostengono i loro figli in percorsi universitari di un certo tipo, però insomma l'AMPA adesso se può fare addirittura un miracolo per, come dire, modificare anche le richieste del mercato del lavoro in Italia, che magari hanno bisogno di altro adesso, forse non troppo di laureati in materie letterarie, che cosa possiamo rispondere a questa mamma preoccupata? La mamma preoccupata possiamo rispondere che non credo, ma io parto da una visione pessimistica che deriva dal contatto, insegnando a Bari e quindi in Puglia, con una realtà che vede molti giovani disoccupati, 50%, 51% in realtà di lavoro sommerso. Cioè, abbiamo dei ragazzi che hanno naturalmente la laurea magistrale, hanno anche fatto dei master, eccetera, che però non trovano una collocazione corrispondente al loro curriculum. Questa è la realtà. La percentuale, la partecipazione del 70% di ragazze sono molto studiose, molto preparate, non a caso poi partecipano e vincono concorsi nella pubblica amministrazione, oppure anche dalle private vengono assunte, anche da società prestigiose come Ernst & Young, non è che vanno, però devono trasferirsi. Ma non è fuga di cervelli, è soltanto mobilità interna. Per quanto riguarda gli studi umanistici, non lo so, al momento ritengo che per poter collocare adeguatamente una persona che abbia titoli, cioè ci vuole del personale qualificato che sappia valutare naturalmente il curriculum e quindi sappia indicare, ma questo il professor Soccioni è sicuramente più preparato. Invece volevo, sulle politiche passive e attive, in realtà non c'è una linea di demarcazione così rigida. Pensiamo che tanti anni fa, nell'85, la legge Marcora, che poi porta il nome di un importante ministro, consisteva nel fatto di anticipare trattamenti di cassa integrazione e guadagni affinché poi i lavoratori potessero investirli in attività imprenditoriali. Però ci vuole un'intelligenza, ci vuole una capacità politica prima ancora che tecnica, cioè saper capire le necessità del paese e le necessità, come utilizzare meglio le risorse. Allora qui non è tanto di fare in fretta una legge, ma di essere certi dell'efficacia di questa legge. Allora ci vogliono le risorse. Prima parlavamo con l'amico Soccioni sul fatto che se si prende a modello quello tedesco, che ha una dotazione di 30 miliardi di euro, 109 mila dipendenti, probabilmente se vogliamo ambiamo a quel tipo, probabilmente ci vuole un po' più di tempo, certo, per realizzare quel percorso e per soddisfare le richieste della signora. Lei l'aveva detto in termini molto meno accademici, non si possono fare le nozze con i fichi secchi. L'aveva detto Soccioni, perché io sul fatto questo delle nozze obiettivamente non mi vuole, non mi devo fermare per un attimo prima di dare la parola ad altri ascoltatori. Vi devo dire che chiaramente il grado di apprezzamento per il funzionamento degli uffici per l'impiego su scala nazionale, ma voi lo conoscete benissimo, non è molto alto, almeno dalle testimonianze che ci stanno arrivando. Fra un po' sentiremo Gianfranco da Verona. Esatto, nel frattempo però dovete venire con me, perché io invece vi faccio sentire cosa sta succedendo in borsa in questo momento. A tra poco. Cuore e denari. Tengo le offerte di impiego, ma sono per donne, ragazze e bambine. Ho finalmente, forse ho trovato, cercasi capo, magazziniere, ma che non abbia con più di 20 anni e almeno 10 anni di buona esperienza. Senza lavoro io sono, ritorno a casa la mare scopare. State cercando lavoro? Raccontateci le strade che state percorrendo e le difficoltà che state incontrando. All'800 24 00 24 ne stiamo parlando oggi in diretta con due esperti straordinari, ma se il lavoro ce l'avete, vogliamo nella seconda parte della trasmissione capire la relazione che vi lega al vostro tipo di lavoro. Per fare questo avremo il dottor Aquilar a partire dalle 11.45, ma abbiamo messo nella nostra pagina Facebook dei gioco test che vi metteranno in grado di capire qual è il vostro concetto di lavoro e quanto si differenzia dal vissuto che avete nel lavoro che state svolgendo. 800 24 00 24 vi aspetto a partire dalle 11.45, ma intanto i vostri interventi, cercheremo di capire come e si può cercare di risolvere una situazione che è drammatica, non solamente per i giovani ma anche per chi è un pochino più avanti negli anni, che è come quella di perdere o di non trovare lavoro. Tra poco. Vina! Vina! Ho trovato lavoro, vista! Un lavoro fantastico! Ah, Dio mio, che notizia! Che meraviglia! Certo! Dunque, Pina, ti confesso che sono felice. Dunque, la direzione dell'Hotel Caprese mi ha chiamato in previsione dell'avvento della lira pesante. Questi vogliono modificare tutti i loro listini, vale a dire tutto il prezziario, per esempio, i menu, i listini della biancheria, insomma, tutta la loro contabilità. È un lavoro assolutamente delicatissimo e di grandissima responsabilità. Io devo, con un pennarello, cancellare gli ultimi 3 zeri. E allora, insomma, non è un lavoro molto impegnativo, non è un lavoro di concetto, però in certi momenti bisogna proprio anche accontentarsi, purtroppo, di fare qualche cosa di radicalmente diverso rispetto a quelle che sono le proprie aspirazioni. È un tema anche che abbiamo affrontato con la mamma preoccupata che ci ha chiamato prima. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi in diretta, se volete chiamare il numero verde. Ma fra un po' vi faremo ascoltare anche una domanda di una persona che è qui tra il nostro pubblico. E allora vi ribadisco, siamo in diretta da Montepulciano, dove è in corso il Festival Luci sul Lavoro, organizzato da Eidos e da Italia Lavoro. Siamo con noi questa mattina Maurizio Sorcioni, responsabile studi e analisi del mercato del lavoro di Italia Lavoro, che è questa organizzazione incaricata di gestire politiche attive per il lavoro sotto la, come dire, gestione del Ministero del Lavoro, naturalmente, e poi Eidos, che è questa società appunto di formazione, di studi, di analisi, che si occupa anche di tutto questo, proprio molto banalizzato tutto, ma vi avevamo già spiegato tutto all'inizio. Era pronto Gianfranco da Verona? Vediamo se è ancora pronto. Gianfranco? Buongiorno. Eccolo qua. Buongiorno. Allora, vada Gianfranco. Tocca a me. Sì, voleva intervenire lei, per la verità. Sì, certo. Allora, io ho avuto un'esperienza a vario titolo con l'Ufficio Provinciale del Lavoro. Sono arrivato a definirlo l'ufficio contro la massima occupazione, perché si tratta di fatto, per quanto mi riguarda almeno, di uffici che hanno solamente un compito burocratico. I vecchi uffici di collocamento passati poi alle province sono rimasti quelli che fanno l'elenco dei disoccupati, e non so che senso abbia tenere in piedi una macchina del genere, sicuramente molto costosa, perché uno solo per tenere l'elenco di chi va a iscriversi poi, perché non è neanche che uno diventa disoccupato quando lo diventa, ma solo se quindi Gianfranco iscrive. per la sua esigenza non ha avuto nessuna utilità, l'hanno aiutato, no, in qualche maniera, riorientato. No, lei era andato per lei? Come, scusi? Era andato per sé oppure sì, allora, per un figlio? No, anche per anni collaborato per quanto riguarda l'inserimento dei disabili come tecnico, e anche lì per la verità una grande burocrazia. Dopo è toccato a me essere disoccupato, ho provato e ho visto che mi hanno confermato che appunto non hanno la minima né competenza né capacità, forse neanche struttura, di essere in grado di coniugare domanda a offerta. E quindi non so a che punto si tenga in piedi una cosa del genere, quei fondi li usiamoli per altre cose. Non so se sicuramente non sono quello che risolve il problema, però comunque da una parte bisogna cominciare. Non ho idea di come funzioni, no, cioè so come funzionano, ma non ho idea se i privati sicuramente fanno di più, le agenzie di collocamento private, ma sicuramente il pubblico non funziona. Vedo una grande burocrazia anche nel mondo del lavoro, insomma, il nostro paese muore di burocrazia e la vedo anche lì. Un inciso. Rimango disoccupato, non mi preoccupo subito di fare domanda di disoccupazione, perché non ci ho mai pensato nella mia vita, finché un amico mi dice ma guarda che c'è questa possibilità, mi rivolgo per fare la domanda, dice guarda che il tempo è scaduto. Cioè siamo un paese che burocratizza anche la domanda di disoccupazione, un po' come quando uno va al cinema che dice ormai è già cominciato. Mi pare una follia, vero? Io ho perso qualche migliaio di euro perché non ho fatto domanda entro 2 mesi. Mi pare una roba che non sta né in cielo né in terra, insomma, in un paese che soffre di lavoro. La realtà, oggi mi sono ricollocato da solo con le mie amicizie e le mie esperienze, però parlo anche con chi forse non ce la fa e vedo che il pubblico non dà nessuna garanzia. Nasce tutto il cibo del mondo? Da dove arriva il pomodoro? Chi sostiene la terra? Le domande dei bambini, le risposte degli scienziati. Da cibo a evoluzione, da spreco a sostenibilità. Le grandi parole di Expo raccontate ai più piccoli. Telmo, sei sicuro? Riusciremo a spiegare anche parole tipo biodiversità? Certo Federico, è la diversità degli animali e delle piante, e ci sono un sacco di sorprese. Tu per esempio sapevi di essere parente della banana? No, però vabbè, se lo dice un filosofo della scienza mi sa che ci devo credere. Vi aspettiamo ogni domenica alle 9 con interviste, esperimenti, storie, filastrocche e tante curiosità. Con Telmo Pievani e Federico Taddia, Terra in Vista, l'Expo come non l'avete mai visto. Hai mai seguito il volo di un gabbiano, traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano, io sono così. Sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il Falco e il Gabbiano, dal lunedì al venerdì alle 15.30. Solo su Radio 24. Venire per accompagnare i disoccupati è uno degli obiettivi chiave. L'ANPAL non potrà fare miracoli, perché nel decreto l'ANPAL nasce con 400 dipendenti, per intenderci, quindi non contribuirà a migliorare il numero degli operatori sul territorio, perché poi quello che conta sono gli sportelli che stanno sul territorio, non quelli che stanno allora, a Roma, al Ministero. Infatti dicono poi il ragazzo siciliano che cerca lavoro non avrà più il punto di riferimento sul territorio, ma dovrà chiamare Roma. È chiaro, Roma. Ma non è questo. Ovviamente l'ANPAL ha una funzione di coordinamento, ma quello che resta scoperto è proprio l'altro aspetto, cioè come migliorare e rafforzare questa, diciamo, rete che sta sul territorio di operatori che poi possono assistere i disoccupati nella ricerca di lavoro. Esatto. Tra l'altro vi volevo ricordare che è molto importante che un'innovazione introdotta dal disegno di legge è quella dell'assegno di ricollocazione. Ricordiamolo agli ascoltatori perché è un loro diritto. Sì. Un disoccupato da più di 6 mesi avrà diritto ad avere un assegno che potrà spendere con un operatore privato o un operatore pubblico affinché questo operatore lo accompagni nella ricerca del lavoro. Certo. E questa è un'innovazione molto importante. Da quando? L'innovazione è già stata introdotta con il decreto che sta in discussione alle due commissioni per il parere, dovrebbe essere definitivo e quindi partirà, diciamo, da qui a qualche tempo. Sorcioni, lei sa che questo sistema di premialità è contemplato anche, per esempio, anche da Garanzia Giovani, che non mi pare stia proprio funzionando tanto. Qua dovremmo aprire un'altra parentesi, purtroppo non abbiamo molto tempo. Nicoletta ha detto che col professor Aquila mi dà un altro paio di minuti. Ma certo, anche allora così adesso sentiamo il traffico, certo. Esatto, magari prendiamo un'altra telefonata al volo e poi al professor Aquila possiamo anche farlo commentare queste testimonianze, perché sono molto interessanti anche per lui. Immagino. Volentieri, lo invitiamo, dalla regia lo chiameranno e così si aggiunge anche il dottor Aquila con un taglio un po' psico. A tra poco. Cuore e denari. Sì, adoro il mio lavoro, John, ma questa cosa mi uccide. Quando mi trovo in ufficio, vorrei essere qui. E quando mi trovo qui, io penso costantemente al lavoro. E so che sto facendo tutte e due le cose a metà. Tra poco parleremo di come ci rapportiamo con il lavoro. Ci raggiungerà il dottor Aquilar, che ha elaborato per noi dei test che vi invito a fare, a cimentarvi proprio con gli stimoli e gli spunti che il dottor Aquilar ha messo sulla nostra pagina Facebook, e ci ha dato la sua disponibilità a commentare anche le vostre risposte. Intanto lo salutiamo. Dottor Aquilar, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Allora, il dottor Aquila è un amico di Cuore Denari, una firma, una firma del Daily Lab. Secondo. I suoi post sono tra i più letti, è uno psicologo, ma è un autore di saggi che sono stati pubblicati in Italia e all'estero di grande successo. Tra l'altro il tema del lavoro è molto sentito dal dottor Aquila, è ripreso in due libri che ha appena pubblicato, Parlare per capirsi e Parlare d'amore, entrambi pubblicati da Franco Angeli, e da cui prenderemo anche spunto per dare delle risposte ai nostri ascoltatori. Quindi, dottor Aquila, la teniamo qua un po' con noi calda, perché vogliamo capirci anche, no? Mi piace parlare per capirsi, perché effettivamente le politiche attive e passive per il lavoro devono parlarsi un po' di più, comprendersi e viaggiare insieme. Allora, abbiamo tratto peraltro questo brano che ci ha introdotto alla terza parte di Cuore Denari, un brano appunto di un colloquio di lavoro che aveva come protagoniste donne. Vorrei sentire la testimonianza di Giuliana da Treviso, perché mi sembrava molto interessante, con la quale poi concludere questa parte di Denari con dei suggerimenti pratici, come Nicoletta naturalmente chiede sempre ai nostri ospiti. La donna di cuore va al sodo. Sta dicendo che io no, perché io mi sono un po' più sentimentalmente ammorbidita invece. Brava. In questo frangente. Ci siamo un po' mescolate. Giuliana, benvenuta. Buongiorno a tutti. Allora, io sono buongiorno, Giuliana. Un over 50 e da un anno sono disoccupata. poi quindi quando si è disoccupati ovviamente mi sono rivolta alle varie strutture, centro per l'impiego, sono stata accompagnata anche nelle politiche attive da una coach che mi ha naturalmente redatto molto bene il curriculum, dato un po' tutti gli input per trovare, quindi per una ricerca mirata, però finora nulla. Frequentando un po' le varie strutture per la ricerca di lavoro, ho conosciuto anche altre persone che sono nella mia stessa condizione, quindi sia per età e anche per anzianità di servizio, la chiamo io. E così ci siamo messi d'accordo, così ci siamo un po' confrontati e abbiamo attuato una, chiamiamola, strategia, così ci siamo dati 50 km di distanza dalle nostre residenze e abbiamo praticamente dato a ciascuna persona, siamo in 5, abbiamo guardato un po' tutto il territorio e quando si andava nelle aziende chi dava i propri curriculum, si lavorava dava anche quello degli altri. Sì. Ecco, è da qualche mese che abbiamo fatto questo, l'effetto, abbiamo avuto dei contatti, ovviamente non siamo tanto appetibili, però qualcuno ha sortito un effetto abbastanza positivo, una persona è stata... Comunque complimenti Giuliana per l'intraprendenza. Praticamente Giuliana con questo gruppo di amiche ormai ha creato il proprio centro per l'impiego di lei con delle politiche attive individuali e personali. Professor Arrigo, che ne pensa di questa testimonianza? E poi andiamo con il suggerimento pratico. Forse Nicoletta prima ci chiedeva al professore di darne uno per i ragazzi sì. che escono dall'università. Allora, anzitutto il campione che annualmente io ho occasione di osservare, sono 100 ragazzi, è un campione privilegiato. Noi abbiamo in molte regioni un tasso di abbandono scolastico universitario altissimo, sono i famosi NEET o NEET, sì. per cui noi ci riferiamo a un 30% della popolazione che tende ad acquisire una alta qualificazione professionale. I ragazzi non sono gli sdraianti di Michele Serra, sono molto informati e accedono, sì, frequentano anche i centri privati, pubblici, eccetera, però non sono molto soddisfatti delle risposte che ricevono e lo trovano da soli. C'è uno scambio di informazioni che sarebbe interessante esaminare. Anni fa il professor Soccioni, che era una colonna del Censis, può testimoniare come c'era una ricerca attenta sul territorio, che non si basava sul si dice, ma andavano a vedere esattamente quali erano le richieste, le qualifiche, i bisogni soggettivi e oggettivi del territorio. Ora, sarebbe interessante vedere come i ragazzi comunicano tra di loro, noi impareremmo moltissimo. Quindi si rivolgono e sono insoddisfatti delle risposte che dà il pubblico e il privato e si comunicano informazioni. Mentre studiano loro, fanno i famosi lavoretti, si accontentano, tacciano, aspettano e poi vanno a cercare. Ma si tratta di una parte privilegiata, anche se non ricca, perché la maggior parte, coloro che non compaiono, quelli che non sono nemmeno sdraiati, sono gli invisibili. Quello è il vero problema. A loro, secondo me, bisognerebbe dare risposte, perché gli altri si arrangiano. Sono capaci, comunicano, si scambiano. Quindi diciamo il suggerimento il vero pratico che arriva il resto, da lei è sollevare il velo è il su una resto, platea di è il resto, il sommerso, è l'invisibile, quello è il vero problema secondo me. Noi dobbiamo andare verso la chiusura di questa parte. Sorcioni, l'ultimo commento sul caso della nostra ascoltatrice di Treviso, perché è stato veramente significativo, direi. Beh, è un classico esempio, diciamo, di grande attivazione, come dire, muoversi su questo, ovviamente. Non ho certo incrociato. Però io vorrei ricordare a tutti, teniamo presente anche lo scenario congiunturale. Noi abbiamo una domanda di lavoro che è ancora molto povera, ci sono dei segnali di ripresa, però teniamo presente che oggi trovare lavoro comunque è difficile, anche perché le opportunità non sono moltissime, sono poche. Quindi partiamo da questo. Se io dovessi aggiungere un suggerimento, suggerirei di fare formazione professionale, cioè un altro degli elementi che è importantissimo e che abbiamo dimenticato in questi anni è quello di riqualificarsi. Bisogna trovare anche il modo, con una formazione breve, una formazione mirata, di modificare e poi possibilmente continuare mentre si lavora e soprattutto farlo. Ora, questo è un elemento importante, lo abbiamo dimenticato. Io consiglio a tutti i nostri ascoltatori di andare al centro dell'impiego, farsi consigliare un corso di formazione per riqualificarsi ed inserirsi. Vogliamo anche aggiungere il consiglio del dottor Aquila, con cui dopo il GR parleremo della relazione che abbiamo con il lavoro che stiamo svolgendo. Ma dottor Aquila, cercare lavoro è lavoro ed è facile, dopo tanti fallimenti, abbattersi. Come si può sostenere un ragazzo, e quindi mi metto dalla parte dei genitori, ma anche una persona che ha perso il lavoro a 40 anni e quindi continuare nonostante tutto. Dottor Aquilar. È un problema di sviluppare la creatività, perché anche per cercarsi un lavoro dobbiamo aumentare le nostre capacità creative, come ci dimostrava Giuliana da Treviso che ci ha parlato prima. Quindi l'idea è che per tenere alta la motivazione a cercare il lavoro possiamo sviluppare la nostra creatività anche in altri settori e poi con l'energia che ci deriva da questo provare a moltiplicare la nostra competenza professionale. Quindi se volete impararla, noi a disposizione il dottor Aquila dopo il nostro GR 800240024. Grazie a Maurizio Sorcioni e Gianni Arrigo per essere stati con noi. Giornale Radio, a tra poco. Dove ti piacerebbe andare quest'estate? In un posto poco conosciuto e possibilmente a buon mercato. E che cosa ti piacerebbe fare? Riempirmi gli occhi di cose belle. Con chi ti piacerebbe partire? Con la mia famiglia e i miei amici a quattro zampe. E tu? Con i miei amici, con mio marito o forse anche da sola. Sono Anna Rita D'Ambrosio. Sono Valeria De Rosa. Ogni settimana vi accompagneremo in giro per l'Europa. Vi aspettiamo a Globetrotter 24. Globetrotter 24, il sabato alle 16 e la domenica alle 17.30 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Formaggio Gran Moravia, capolavoro della filiera ecosostenibile. I nasi elettronici, il contaapi, i droni che sorvolano i campi. Ma anche la cottura in lavapiatti. O le fragole sospese. E internet fra i vigneti. E il pomodoro nero. Questo è Foodlab, il programma che vi racconta le tecnologie per il cibo del futuro. Federico Pedrocchi. Chiara Albicocco. Vi aspettiamo tutti i sabati alle 15 e domenica alle 7.10 del mattino qui a Radio 20. Breaking News. Una buona giornata da Simone Spezia, abbiamo un aggiornamento che arriva da Montecitorio, ci colleghiamo con Alessandra Schepisi. Alessandra, buongiorno. Sì, buongiorno. Il disegno di legge Buona Scuola è stato licenziato dall'Assemblea della Camera in via definitiva, 277 sì, 173 no, 4 astenuti, dopo circa 3 mesi di esame in Parlamento, tra rinvii e rischio di stallo e anche numerose proteste. A favore hanno votato PD, Area Popolare, Scelta Civica, contrari Movimento 5 Stelle, Forza Italia, Lega, SEL, Fratelli d'Italia. A te Simone. E grazie Alessandra Schepisi, torneremo ad approfondire questo argomento in effetto giorno a partire dalle 13. Cuore e denari. Oggi non lavoro, allora sai, mi sa che prendo il volo. Da parte di Cuore Denari insieme al dottor Francesco Aquilar. Dottor Aquilar, anche qui lei ha dei fan. Male. Dottor Aquilar, male dice lei. Meno male. Pensavo male, dico come mai. Allora, cerchiamo di far fruttare questo tempo che scappa. 800 24 00 24. Su che cosa lavoriamo in questa seconda parte di trasmissione? Da un lato riprendiamo il tema affrontato nella pagina di Denari e quindi ci rivolgiamo a chi sta cercando lavoro, si sente abbattuto, stanco, sfiduciato, con l'autostima sotto i piedi. Cerchiamo di capire come tirarsi su, perché il lavoro, cercare lavoro è un lavoro, è una ricerca continua, bisogna recuperare delle energie. 800 24 00 24 se vi trovate in questa condizione. Lo stesso numero verde però potete utilizzarlo per parlare della relazione con il vostro lavoro. Lo sappiamo bene, per alcuni il lavoro è una risorsa, per altri solo un amaro dovere, e anche di amore e disamore, ci confermerà il dottor Aquilar, si parla in psicoterapia, no? E lei lo descrive bene nei suoi libri, che voglio segnalare ai nostri ascoltatori perché sono sicuramente di aiuto, soprattutto per guardarsi meglio dentro, parlare per capirsi e parlare d'amore, entrambi pubblicati dalla Franco Angeli e di cui il dottor Aquilar è autore e curatore. Dottor Aquilar, allora iniziano subito i nostri ascoltatori a mettersi in contatto con noi, molti di loro hanno risposto ai suoi test, ci facciamo guidare da lei. Dottor Aquilar, un messaggio per le persone che si sentono abbattute, sfiduciate, che stanno cercando lavoro, lei ha detto puntate sulla creatività. Puntate sulla creatività e contemporaneamente aumentate le vostre competenze personali e professionali, perché il lavoro e soprattutto la ricerca di lavoro è un'attività che si svolge al confine tra le due aree. Molto spesso possiamo pensare di trovare lavoro aumentando le nostre competenze professionali, questo è vero, ma non è più sufficiente nella nostra società odierna. Quello che serve è anche aumentare le competenze personali, cioè la capacità di leggere dentro se stessi, di comprendere la mente altrui e di avere padronanza del comportamento anche in situazioni difficili. Sviluppando queste abilità sarà meno difficile trovare lavoro. Dottor Aquilar, vogliamo parlare anche della relazione che abbiamo con il nostro lavoro. Possiamo paragonarlo un po' a una relazione d'amore che ha degli alti e bassi. Allora, ci aiuti a lei, come possiamo parlare con noi stessi per capire se siamo a nostro agio o no con il nostro lavoro? Sì, il segreto è proprio quello, di essere attenti al nostro dialogo interno. Tutti noi facciamo un dialogo interno di commento della realtà con noi stessi, solo che poiché è automatico ed è sottovoce, molto spesso non riusciamo ad ascoltare quello che noi diciamo a noi stessi. E tra le cose che potremmo fare è provare a domandarci com'è il nostro lavoro oggi con una serie di aggettivi, se è piacevole o spiacevole, utile o inutile, se ci appare interessante o noioso, bello o brutto, stimolante o ripetitivo, arricchente o distruttivo. Una volta che abbiamo risposto a queste domande possiamo pensare se potenziare il nostro lavoro oppure provare a modificarlo, che è un'altra questione dirimente, se andare avanti in quello che stiamo facendo, cercare di fare una piccola rivoluzione personale, cambiando e trasformando gradatamente il nostro lavoro. Dottor Aquilar, sicuramente il lavoro ci permette di sviluppare alcune competenze, però ce ne toglie, o almeno ne fa addormentare delle altre. Allora mi piace pensare al lavoro come al lavoro che noi dobbiamo fare su noi stessi mentre lavoriamo, come a quello che facciamo in palestra, no? Come un atleta deve sviluppare tutti i muscoli, non solamente ad esempio quelli delle gambe perché corre, deve bilanciare, deve creare un'armonia. Vogliamo allora, partendo dalla tipologia di lavoro che stiamo svolgendo, farti aiutare dal dottor Aquilar per capire come e quali competenze dovremmo sviluppare per cercare un po' un'armonia. Dottor Aquilar, è d'accordo? Allora, da che lavoro vogliamo partire? Da quello, il lavoro di ufficio? Benissimo. Un lavoro che richiede attenzione, che ha una buona dose anche un po' di monotonia, richiede precisione. Dottor Aquilar. Se facciamo un lavoro di ufficio che ha una certa quota di monotonia, ma anche richiede la nostra attenzione perché è di precisione, noi oltre a tenere presente il nostro dialogo interno dobbiamo evitare di ripeterci continuamente che il lavoro è noioso, insopportabile, che non vediamo l'ora di andare in pensione, che è odioso, perché in questo modo noi rendiamo ancora più disagevole la nostra situazione e per compensare quello che ci costringe a fare questo tipo di lavoro, possiamo inserire un'attività creativa sistematica nella nostra settimana, a seconda delle nostre preferenze, quadri, canzoni, romanzi, poesie, ma anche cucina e cucito. Anche in questo caso la creatività arricchisce e rende meno noioso il proprio lavoro. Andiamo al lavoro di responsabilità strategico, tipico dei liberi professionisti oppure dei quadri dirigenziali, dei manager, grande responsabilità e quindi alto livello di stress da gestire e metabolizzare. Poi andiamo da Cinzia che ci chiama da Milano. Dottor Aquilar, certo, nel caso del lavoro, oltre al dialogo interno? Oltre al dialogo interno occorre potenziare le proprie abilità di rilassamento e di sospensione dell'eccessiva velocità del pensiero. Quindi pratiche di meditazione o come la mindfulness possono essere l'ideale. Tra poco andiamo al lavoro manuale e poi anche al lavoro creativo artistico. Intanto 800 24 00 24. State cercando lavoro? Raccontateci come lo state cercando. Non solo se lo trovate, ma come state emotivamente. Esatto. Se invece il lavoro ce l'avete, raccontateci se è il tipo di lavoro che sognavate da fare da piccoli, per il lavoro, no, ideale, oppure se vi dovete un po' accontentare e come, cosa fate per adattarvi. Cinzia, buongiorno, ci chiama da Milano. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Cinzia, siamo tutte da lei. Ci racconti. Il lavoro per me è una sfida costante, quindi deve cambiare come cambia la vita. Mi ha dato energia e mi dà energia, mi dà possibilità di crescere, di cambiare, di migliorare, di imparare sempre qualcosa, di esercitare spirito di servizio ma anche attenzione agli altri, di dialogare e soprattutto da autonomia, che alle donne oggi è molto importante. Questo è assolutamente vero, Cinzia. Ci ha fatto venire la curiosità, che tipo di lavoro fa? Io lavoro dando lavoro ad altri, ovvero creo opportunità di eventi, iniziative, soprattutto iniziative positive. E Cinzia mi sembra assolutamente una persona positiva, dottor Aquilar. Cioè, la sua è stata una telefonata che ci ha un po' tutti caricati di energia. Assolutamente sì. E c'è come motivatore principale l'idea della sfida in senso positivo, cioè l'idea della sfida come competizione con una situazione difficile per aiutare le persone ad affrontarla. Da questo punto di vista certamente diventa un'enorme fonte di energia sia per chi lo fa sia per chi entra in contatto con Cinzia in questo momento. Cinzia ha sottolineato la parola energia ed è quello, anche su questo stimolo vogliamo lavorare insieme al dottor Aquilar. Provate a immaginare, a raccontare in una parola chiave il vostro lavoro e il rapporto che avete con il vostro lavoro. 800 24 00 24, ma dottor Aquilar, noi vogliamo anche occuparci di chi svolge un lavoro manuale, quindi faticoso, a volte ripetitivo, di grande impegno concreto. Non sono solo i muscoli a essere impegnati, anche se la fatica maggiore forse si avverte proprio lì, sul piano fisico. E certo, in questo caso invece potrebbe essere utile inserire un'attività intellettuale nel proprio ritmo settimanale, proprio per compensare, che potrebbe essere per esempio imparare una lingua, ma non necessariamente moderna, posso decidere anche di imparare l'egiziano antico. Anche qui c'è una creatività di compensazione e a volte anche un corso di scrittura creativa. Se lavoriamo molto con il corpo dobbiamo compensare attivando intellettualmente la nostra mente. E andiamo al lavoro creativo e artistico, quello che è più affascinante. Un po' il nostro anche. Si deve produrre qualcosa che ancora nessuno ha pensato, oppure dare voce alle emozioni proprie, altrui, attraverso il risultato del proprio impegno professionale. È il tipo di lavoro sicuramente più invidiato, perché esprime la cifra distintiva della persona. Ma, dottor Aquila, anche, ci sono anche le ombre di questo lavoro, e quindi è lì che dobbiamo fare luce. Non solo, ma questo lavoro presenta uno stress specifico che spesso non appare a chi lo guarda dall'esterno, perché l'idea di dover essere creativi per forza può dare un senso di peso e di fatica e di blocco mentale. Per questo occorre imparare a fare il vuoto nella propria mente affinché la creatività possa esprimersi meglio, ancora con tecniche meditative come la mindfulness o con tecniche di rilassamento. E anche qua, per compensazione, un'attività sportiva o fisica e delle relazioni sociali non di lavoro, soprattutto quindi con sconosciuti, possono potenziare la creatività già di partenza e rendere il lavoro nutrito dalle relazioni sociali e non che inaridisce la mente del creativo. Allora, intanto che dalla regia chiedo se mi mandano la poesia di Gibran che avevamo selezionato, che c'è una poesia che ci porta a un altro spunto che vogliamo discutere con il dottor Aquilar, è proprio un po' l'amore per il lavoro. A volte anche quando facciamo un lavoro che ci piace e ci dà soddisfazione, come in una storia di amore o di amicizia, la relazione ha degli alti e bassi. Dottor Aquilar, è normale, è vero? È assolutamente normale, come in una storia d'amore, ma con una differenza, nel senso che in generale l'amore per il lavoro è più radicato perché molte persone hanno la sensazione che dipenda esclusivamente da loro, mentre invece nella relazione romantica c'è un 50% che inevitabilmente dipende dagli altri. Noi possiamo stare attenti alla nostra motivazione e quando ci accorgiamo che abbiamo perso la motivazione dobbiamo staccare l'attenzione da quello che facciamo di solito e inserire nuovi stimoli. In questo modo potremo modificare leggermente il nostro lavoro nel tempo, anche Cinzia parlava dell'aggiornamento del lavoro nel tempo, arricchendolo con quello che è il cambiamento che noi stessi stiamo vivendo. E in questo modo superiamo la crisi di odio rispetto al lavoro, ma evitiamo anche di diventare dei work addicted, cioè dei drogati del lavoro che non possono andare in vacanza altrimenti stanno male. Anche questo dobbiamo sono parecchi, dottor Aquilar, a questi dovremmo dedicare una puntata. Sì, eh? Sono d'accordo. Vero? Si chiamano workaholist in inglese, cioè alcolisti che invece di usare l'alcol usano il lavoro. Per ci non sono dei segnali premonitori di questo. Andiamo a sentire questa poesia che vogliamo dedicare a tutti coloro che amano il loro lavoro, ma anche a chi al momento se ne sente sopraffatto. Regaliamo questa perla di saggezza di Gibran, poeta e premio Nobel. E cos'è lavorare con amore? È tessere un abito con i fili del cuore, come se dovesse indossarlo il vostro amato. È costruire una casa con dedizione, come se dovesse abitarla il vostro amato. È spargere teneramente i semi e mietere il raccolto con gioia, come se dovesse goderne il frutto il vostro amato. È diffondere in tutto ciò che fate il soffio del vostro spirito e sapere che tutti i venerati morti stanno vigili intorno a voi. Khalil Gibran. Dottor Aquilar, versi che parlano da sole, che sarebbero ogni tanto da rileggere per ritrovare quell'energia, quella spinta che è fondamentale sia quando il lavoro ce l'abbiamo sia quando il lavoro non c'è più e dobbiamo cercarlo. Che dice? Certamente, e comunque sono versi che ci inducono a sviluppare la nostra capacità di amare. La nostra capacità di amare il lavoro, la nostra capacità di amare le persone che abbiamo vicino, la nostra capacità di amare la vita e in qualche modo anche il mondo, che per quanto possa sembrare un postaccio rimane il miglior luogo dove possiamo vivere. Quindi un'attenzione continua a sviluppare la capacità di amare dentro e fuori del lavoro ci può sicuramente aiutare. Andiamo a Luigi che ci chiama da Pistoia all'800240024. Benvenuto Luigi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Senta, intanto... Pronto? Pronto? Sì, Luigi. Noi la sentiamo bene, Luigi. Pronto? Sì? Io vi sento malissimo, vi ricevo molto male. Comunque sì, volevo farvi i complimenti per le trasmissioni che seguo tutti i giorni, mi fate molta compagnia nel mio lavoro. Grazie. Oltre ai complimenti, stamattina mi sono deciso a chiamarvi perché ritengo che sia davvero importante il lavoro nella vita degli uomini. Però siccome sentivo il dottor Aquilan dire che praticamente bisogna prepararsi, e sono d'accordo con lui, al pensionamento eccetera eccetera, io credo che il pensionamento purtroppo questo aspetto lo mandano un po' troppo in là e in qualche modo penalizzano quello che può essere quel ventennio per ritrovarsi, per riprendere in qualche modo contatto con se stessi e magari per prepararsi al grande viaggio. Io sono una persona fortunata. Ecco, sì, dottor Aquilar, sì, l'abbiamo sentito. Grazie Luigi per questo suo contributo, dottor Aquilar. No, forse c'è stato un malinteso, l'ascoltatore non parlavo di anticipare o comunque di muoversi sul pensionamento, parlavo di non dire. Sulle pensioni è un tema di denari, dottor Aquilar, sulle pensioni coinvolgiamo poi Deborah. La spesa previdenziale deve stare in sicurezza, per questo che allunghiamo l'età. Certo. Infatti io non avevo parlato di questo, dicevo che ci farebbe male mentre stiamo lavorando continuare a pensare al momento della pensione, sono due momenti importanti, diversi, e naturalmente possiamo utilizzare quel terzo della nostra vita che va sul lavoro per godercelo e per utilizzarlo naturalmente bene. L'idea è stare nel momento presente e non allontanarci continuamente con un altro pensiero sul futuro, sul passato, che ci impedisce di restare nel qui ed ora, con una piccola progettazione per il futuro, ovviamente dobbiamo pensarci, ma restando a poter trasformare in bene per quanto possibile quello che facciamo quotidianamente, incluso il nostro lavoro che prende via un terzo del nostro tempo. Allora, dottor Aquilar, vediamo se riusciamo a chiudere in bellezza, che significa in tutto in un minuto e mezzo, il collegamento con Massimo da Treviso, a cui chiediamo di intervenire, ma proprio flash e così. Massimo, chiudo in bellezza con lei, vada. Allora, io ero all'ufficio acquisti su una ditta di abbigliamento, però non ero soddisfatto e parallelamente ho aperto un negozio di fumetti qui a Treviso. È chiuso la ditta dove lavoravo e adesso mi trovo a fare avere il negozio. Tra l'altro la soddisfazione è questa, che con l'andare del tempo, da 15 anni, praticamente io sono diventato l'organizzatore della manifestazione del fumetto qui di Treviso. Quindi la soddisfazione è quella. Dobbiamo andare, Massimo. Due fumetti viventi come noi, vuole che non partecipiamo. A proposito di creatività, dottor Aquilar, guardi, concludere con la testimonianza di Massimo è veramente la ciliegina sulla torta. Una battuta del grande Aquilar. La battuta è che la cosa più immutabile del mondo sono i cambiamenti, e il nostro ascoltatore ha cambiato anziché lamentarsi del suo lavoro, è riuscito a leggere dentro di sé che era il momento, il kairos, il tempo soggettivo per cambiare, per voltare pagina. Anche questo dobbiamo sempre tenerlo in mente, se non altro come riserva mentale. Grazie al dottor Aquilar per essere stato con noi. Lo ritrovate sulle nostre pagine Facebook qualora vogliate compilare il test di valutazione, come ha fatto Daniele e molti altri. Dottor Aquilar, un abbraccio, a presto. Grazie. Un abbraccio. Grazie a voi da Montepulciano. A presto.